Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. :16:06, 30 secondi in questo esatto istante. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati col vostro appuntamento con l'attualità internazionale. I saluti vi vengono anche da Miriam Lucchetti, Nadia Zammitti, che sono in redazione, e Roberto Scaltritti, invece, in regia. 349-238-6666, gli sms per commenti o suggerimenti sui temi che tratteremo quest'oggi. Twitter, cercatemi, sono Giampaz, oppure Nessun Luogo 24. Infine su Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano-Radio 24. E in questa prima puntata dell'ultima settimana di programmazione di Nessun Luogo è Lontano, io vi porto a Sana'a, capitale dello Yemen. 12 protests have erupted again in the Yemeni capital, Sana'a, after a government negotiating team abandoned talks with the Houthis. Supporters of the Houthis have given the prime minister until today to step down. The group ended their rebellion in 2010. Perché vi porto in Yemen? Beh, perché dura ormai da giovedì scorso una violenta, forte, violenta per fortuna non ancora, protesta di manifestanti Houthi, cioè quella componente sciita che vede una ribellione nel nord del paese, che sono scesi fino a Sana'a e hanno delle richieste precise verso il governo. Forse una delle cause esplosive è stata l'aumento del prezzo della benzina con quel taglio ai sussidi voluti dal presidente, ma il braccio di ferro tra Sana'a e la componente sciita, gli Houthi del paese, appunto, non è nuova. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con Sana'a, dove c'è Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance. Laura, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Grazie Giampaolo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, la prima domanda è: che aria tira in questo momento a Sana'a, visto che gli ultimi giorni, insomma, c'erano decine e decine di migliaia di manifestanti che hanno riempito le strade, forse anche difficile quantificarli, no? Sì, assolutamente. Nell'ultima manifestazione di venerdì, diciamo che ufficialmente dicevano di essere 2 milioni, io direi che erano certamente 500.000 persone. Comunque c'è un'atmosfera di attesa, ogni pomeriggio cortei nelle strade principali intorno alla città vecchia, al Saila, con persone che si trovano sopra i pick-up che inneggiano all'arrivo degli Houthi. Quindi è un momento cruciale per il futuro del paese e della capitale, un momento in cui può essere ridisegnato il governo, un momento in cui si potrebbe anche arrivare ad una soluzione peggiore, ad una paventata guerra civile. Allora, siccome lo Yemen diciamo che non occupa particolare spazio nella stampa, soprattutto quella italiana, ascoltiamo insieme che paese è lo Yemen. La moderna Repubblica dello Yemen nasce nel 1990 con l'unificazione tra la regione tradizionalmente islamica del nord e lo Yemen comunista del sud. Da allora, nonostante una politica tendenzialmente aperta alla modernizzazione, il paese rimane ancorato alla sua componente tribale. Con un'economia basata su petrolio, cotone, caffè e carta ed una corruzione dilagante, lo Yemen è il paese più povero della penisola arabica. Nel 2012 la Banca Mondiale lo posiziona al 149esimo posto per PIL pro capite. Nel 2009 la regione del nord è teatro di violenti scontri tra le truppe dell'esercito yemenita e i separatisti Houthi, un gruppo settario di sciiti zaiditi, che causano centinaia di vittime e costringono alla fuga più di 200.000 persone. Da allora il paese resta scosso da continue tensioni regionali. All'inizio del 2011, in seguito all'onda generata dalla primavera araba in Egitto e Tunisia, anche lo Yemen è attraversato da una massiccia serie di proteste popolari contro il presidente Ali Abdel Saleh, al potere da 30 anni. Dopo mesi di proteste e la negoziazione dei paesi arabi vicini, nel novembre 2011 Saleh accetta di rinunciare alla sua carica, che passa all'allora vicepresidente Abdrabu Mansur Hadi. Si forma un governo di unità nazionale ed inizia un periodo transitorio di riforme politiche. Nel frattempo dopo l'uccisione di Osama Bin Laden, lo Yemen è diventato una delle principali basi operative di Al-Qaeda, che ha abbandonato i campi di addestramento in Afghanistan e Pakistan. Approfittando dello sconvolgimento politico e delle proteste nel corso del 2011, l'organizzazione terroristica è infatti riuscita ad ottenere il controllo su alcune città meridionali della nazione. Questa è la sintetica fotografia della più recente storia dello Yemen. L'avete sentito, i motivi di interesse sono molti. Torniamo da Laura Silvia Battaglia, che è con noi in diretta da Sana'a, capitale del paese. Laura, una manifestazione senza precedenti questa, perché se sono veri i numeri che tu hai potuto scrutare, insomma 500.000 persone sono veramente tante. Sì, una manifestazione senza precedenti non in assoluto, nel senso che certamente non si vedeva un numero simile di persone per strada dal periodo della rivoluzione. Come sapete, lo Yemen è stato anch'esso interessato alle cosiddette primavere arabe, ma eccezionale nel senso che va ricordato che dal 1962, cioè quando e fino al momento in cui gli Houthi avevano stabilito questo imamato zaidita, non mettono piede a Sana'a, non mettono piede in senso politico, ma in senso legato anche alla presenza forte sul territorio, perché comunque a Sana'a ci sono Houthi ovviamente. E questo è un discorso particolarmente importante se consideriamo che attualmente la città presenta almeno tre campi, cioè tre postazioni dove gli Houthi sono stabiliti. Una di queste si trova su Baha e l'altra invece si trova sulla strada che da Hamran porta a Sana'a e viceversa, vicino all'aeroporto di Sana'a. E qual è la particolarità di questa vicenda? È che gli Houthi dentro Sana'a stanno manifestando in modo pacifico, almeno fino ai 5 giorni che sono stati chiesti dal leader Abdel Malik al-Houthi per poter dialogare con il governo provvisorio, ma la particolarità è che su questa strada sono presenti Houthi che provengono dal nord del paese e portano con sé delle armi pesanti e vogliono entrare con esse in città, e questo è uno dei primi motivi di scontro con il governo e anche di blocco degli stessi Houthi, almeno delle formazioni più militanti nei dintorni della città stessa. Andiamo in quelle strade di Sana'a, Laura Silvia Battaglia, con le voci che tu hai raccolto. Vi facciamo intanto sentire Shayef Abotatim, che è un trentenne e Houthi di Sana'a. Sentite. Siamo qui per i nostri diritti e i nostri diritti sono garantiti dalle Nazioni Unite. Le persone qui riunite hanno il diritto di chiederli. Io sono laureato dal 2007 in scienze linguistiche, parlo inglese e francese e non riesco a trovare lavoro. È ammissibile. Sono qui per chiedere i miei diritti e cambiare questo governo che per me è un regime ingiusto. Siamo qui per vedere realizzato quanto ha promesso il governo: l'abbassamento del prezzo del petrolio, l'applicazione nella vita quotidiana e reale di quanto deciso nella conferenza di dialogo nazionale. Vogliamo cambiare questo regime e avere una nazione meglio governata e con nuove alleanze politiche. La voce che hai raccolto, Laura, di Shayef Abotatim, questo manifestante trentenne Houthi che ha incontrato lì nelle strade di Sana'a, si evince innanzitutto che quella primavera araba ha semplicemente accarezzato il paese, perché insomma mi sembra di capire che grandi riforme non sono state messe in campo. E poi c'è questa questione del prezzo del petrolio, della benzina, che è aumentata quasi del doppio in 2 anni. Che cosa c'è dietro realmente? C'è un problema di una politica che non si è adeguata alle richieste delle popolazioni e quindi il prezzo del petrolio è solamente uno dei tanti di questa vicenda, o cos'altro? Il prezzo del petrolio, tutto va ricordato, che è aumentato a prescindere subito dopo la rivoluzione per una serie di motivi. Il paese è comunque indebitato col Fondo Monetario Internazionale, ha cercato di superare il momento post-rivoluzione per evitare degli effetti come sono successi in Egitto, ma legandosi le mani soprattutto con i paesi vicini, l'Arabia Saudita. Sono anche dei problemi per l'estrazione del petrolio nell'area di Hadramaut, ma quello che è importante nella vita quotidiana è ricordare che 20 litri attualmente di gasolio, se costavano nel 2012 1.500 yemeni rial, oggi ne costano 4.000, e questa misura è importante perché con questa misura non solo si dà benzina alle auto e ai mezzi su ruota, ma si utilizza per l'energia elettrica nelle case, diciamo un medio generatore di media portata utilizza 20 litri e li fa durare per una famiglia per circa 2 settimane, quindi questo dà l'idea della rabbia delle persone. Il problema è che il dito è puntato sul governo provvisorio per il fatto che sta facendo aspettare i cittadini rispetto a delle elezioni che verranno nel 2015 e che non ha risolto i problemi economici che sono aumentati, e c'è la solita accusa di malgoverno e di corruzione sulle elite governative che certamente pesa nella rabbia generale e anche nell'adesione alla, diciamo, alla posizione degli UTI. Esistono però anche altre cose, perché comunque ciò che chiedono gli UTI è il fatto di poter mantenere il loro arsenale. Ricordo che tutti in generale in Yemen sono armati, però gli UTI hanno una notevole presenza di armi pesanti che hanno utilizzato e continuano a utilizzare nel nord per combattere i salafiti, in particolare che si identifica con l'Islah Party, per cui il governo ha chiesto loro di disarmarsi, e il disarmamento è una delle condizioni essenziali per seguire ciò che chiede la conferenza del dialogo nazionale. Certo, peraltro, come giustamente ricordavi all'inizio del collegamento, questa presenza di armi massiccia fa temere per il peggio ed è certamente un pericolo che è lì presente proprio alle porte della città. Torniamo nelle strade di Sana'a per sentire come la popolazione sta urlando la sua frustrazione. Se il governo non ci vorrà ascoltare e rispondere alle nostre condizioni, quando mai dovrebbe farlo? Facciamo sapere che il nostro movimento ha iniziato a vedere buoni risultati, che il governo è al collasso ed è prossimo a cadere. Le persone chiedono di cambiare il governo. Vogliamo vedere cadere questo governo corrotto che cospira con gli Stati Uniti e Israele. E queste sono le altre voci che ha raccolto Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance che è in diretta da Sana'a, capitale dello Yemen. Fra l'altro gli ultimi slogan che abbiamo sentito e che mi raccontavi fuori onda, Laura, sono ripetuti a ogni manifestazione, recitavano: Dio è il più grande, morte all'America, morte a Israele, abbassi i giudei, vittoria per l'Islam. Abbiamo già sfiorato il capitolo armi. Apriamo quello religioso. Questo braccio di ferro sunniti sciiti, che è un po', diciamo, uno dei fili rossi con i quali si può tentare di leggere gli ultimi eventi in tutto il Medio Oriente negli ultimi anni. Quanto questo braccio di ferro sunniti sciiti, quindi la questione religiosa, è importante, è alla base di queste frizioni, di queste marce degli UTI, e quanto invece è solamente un pretesto per le richieste che tu hai già messo in luce? Beh, direi che la questione religiosa esiste sempre nella misura in cui diventa una questione culturale antica, che però si riveste dalla necessità della realpolitik. Quello che non bisogna dimenticare è che lo Yemen è un paese profondamente, direi puramente, diciamo così, sunnita soprattutto, e che comunque questa minoranza molto forte e negli anni sempre più politicamente forte e anche si dice, almeno l'Islah Party, quello dei salafiti, che sostiene che sia finanziato anche economicamente, non solo dall'Iran, preme, diciamo, per avere maggiore peso nel paese. Certamente si può dire che nel paese ci sia una sorta di di sciafobia, che è tipica comunque dei paesi che hanno una certa aderenza alle politiche e anche in generale all'wahhabismo dell'Arabia Saudita. Ma dall'altra parte tutto questo fa comunque leva generalmente sulla situazione politica, dove chiaramente l'insofferenza della popolazione porta ad aderire ad un gruppo piuttosto che un altro. Non bisogna dimenticare comunque il ruolo fondamentale, il ruolo chiave delle tribù. Lo Yemen è un paese con un sistema tribale come l'Afghanistan, non c'è foglia che si muova se diciamo che i maggiori gruppi tribali non vogliano. Non bisogna dimenticare che i presidenti vengono posti in essere proprio dai gruppi tribali più forti, per cui direi che questa situazione di Yemen va letta sotto questo profilo, e va letta anche sotto un altro profilo, cioè quello della sempre maggiore presenza dei salafiti, che subito dopo la vicenda della rivoluzione hanno cercato di intensificare la loro presenza, soprattutto guardando all'Egitto di Morsi come un modello politico da seguire, e che poi, quando tutto è cambiato, si sono trovati privi di grandi sostegni, e soprattutto di sostegni di natura finanziaria o di politica internazionale, e quindi sono trovati a dover anche subire proprio l'attacco fisico degli Houthi, i quali hanno portato acqua al loro mulino. Da non dimenticare che il modello politico degli Houthi è quello di Nasrallah nel Libano. Nelle manifestazioni sono sempre presenti slogan, immagini, fotografie e gadget che si riferiscono proprio a Hezbollah. Sì. Allora, già che hai pronunciato la parola gadget, adesso al di là di ogni facile scherzo o ironia, noi nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano abbiamo anche parlato di come il brand di ISIS, dello Stato Islamico, fosse così forte che vi erano negozi a Istanbul, vi erano account Twitter che mostravano bandiere, mostravano gadget, eccetera. So che lì qualche bandiera nera l'hai vista, Laura Silvia Battaglia. Sì, l'ho vista tra l'altro nemmeno molto distante da Sanaa, l'ho vista in villaggi che negli anni passati hanno dato un grande sostegno all'ex presidente, ormai diciamo completamente estromesso, Abdullah Saleh. L'ho vista in posti dove sono stati realizzati degli attacchi con i droni da parte degli americani per sconfiggere Al-Qaeda, o quantomeno per uccidere alcuni elementi ritenuti parte di Al-Qaeda. Ricordo che qui l'Al-Qaeda dello Yemen e l'Al-Qaeda della penisola arabica, questa sigla. Ora, naturalmente anche qui diciamo che mio parere vale un po' il principio per cui eliminare un terrorista purtroppo in questa realtà ne crea molti di più, e queste bandiere sono comparse in zone dove comunque c'erano delle affiliazioni Al-Qaeda. Tra l'altro non è nemmeno un contrasto, perché Al-Qaeda della penisola arabica ha proprio creato, ha sottolineato che sostiene la causa dello Stato Islamico. E ciò che io credo faccia di ISIS un brand, al di là di tutto, non è tanto il suo senso religioso, che è un senso religioso molto premoderno, che va insomma in una direzione anche abbastanza diversa rispetto a alcune tematiche dell'Islam, forzando in alcuni aspetti, ma è anche soprattutto un brand perché è una premoderna diciamo così assenza di potere, cioè, e quindi nelle società secondo me tribali, dove comunque ci sono degli elementi di contrasto di questo genere, fa parecchia presa. Si dichiara uno Stato Islamico, ma come sappiamo nega totalmente un'identità statuale. Qui ci sono parecchie persone che lo seguono, anche se in modo per il momento abbastanza silente, almeno in modo esterno. Ecco, se posso riassumere, in buona sostanza vi potrebbe essere terreno fertile per un attecchire da parte di ISIS, compaiono le prime bandiere e soltanto il tempo ci darà ragione. Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance in diretta da Sanaa, Yemen. L'ultima domanda è, abbiamo sentito anche dal ritratto che abbiamo fatto del paese, è il paese più povero dell'intera penisola arabica, nonostante la presenza del petrolio, è un paese che vive profonde frizioni, abbiamo detto gli Houthi al nord, la ribellione Houthi al nord, ma adesso appunto con questo rigurgito fin dentro in città abbiamo capito perché, Al-Qaeda nella parte meridionale, ma in tutto ciò, in un'economia che arranca, in un'economia in cui sembra che soltanto il CAT, questa fogliolina magica, questa droga masticata sia l'unica l'unica diciamo business che funziona, tu che lo Yemen lo frequenti da un po', vedi qualcosa, vedi una luce alla fine del tunnel? Le condizioni del popolo, della cittadinanza potrebbero cambiare? Questa tensione politica potrebbe portare realmente qualcosa di diverso per gli yemeniti? Ma io direi che la conferenza internazionale, anche grazie all'appoggio dell'Unione Europea e di altri paesi internazionali, diciamo, ha posto in essere dei principi molto buoni in prospettiva di possibili elezioni del 2015, e quindi diciamo che è stato apparecchiato un modello che si spera o si sperava, diciamo, potesse in qualche modo funzionare, cioè il disarmamento, la libertà religiosa e il rispetto diciamo delle differenze religiose, l'attività politica pacifica reciproca tra salafiti e Houthi, elezioni che portassero, che porteranno, diciamo, al governo reali rappresentanti e non le persone designate primariamente dai leader tribali senza particolari competenze. Il problema, secondo me, a mio parere, rimane quello economico, che è molto grave, perché diciamo, probabilmente questo paese risolverebbe i suoi problemi se potesse espandere questa, diciamo, questo commercio, tra l'altro del cat, la droga illegale, da altre parti, cosa che ovviamente non può fare, per fortuna, però diciamo che l'altro aspetto è proprio il debito enorme che ha dal punto di vista economico e la impossibilità di estrarre il petrolio in Hadramaut, perché è la zona attualmente più frequentata dal cat della penisola arabica, e quindi chi ha vinto l'appalto si rifiuta di diciamo di rischiare per tirar su questo petrolio. Quindi l'unica, secondo me, l'unica cosa che può servire è trovare una mediazione attualmente, e questo è un lavoro molto complesso che potranno fare solo gli sheikh, cioè i capi tribù, con da una parte il governo e dall'altra gli attori in causa, che sono gli Houthi e gli Islam Party. Dall'altra parte si confida in generale sulla tradizionale buon senso del popolo yemenita, soprattutto in Sanaa, che nonostante quel che si dica, diciamo così, utilizza i Kalashnikov soprattutto nei matrimoni, e sì, quindi diciamo ci si augura, come era accaduto durante la diciamo la rivoluzione yemenita, che è stata la più pacifica in realtà tra tutte le rivoluzioni cosiddette primavere arabe, ci si augura che questa naturale tendenza, diciamo, ad essere meno cruenti possibili si possa realizzare ulteriormente. Quindi vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e come andrà il dialogo tra il governo e gli Houthi. Certo, fra l'altro, al di là di ogni facile retorica, insomma, lo Yemen è un paese eccezionale con delle risorse incredibili. Tu, Laura, citavi la Hadramaut, che, se io non erro, però bacchettami se sbaglio, produce un miele che forse è il migliore al mondo, oltre al petrolio. Sì, il miele è tra i prodotti naturali migliori di questo paese, dicono appunto il miele di Menita sia il migliore del mondo, senza dubbio è così, perché sì, insomma, l'ho assaggiato, mi sembra di grande qualità e viene anche prodotto in grandi quantità. Sì. Purtroppo, come sappiamo, questo paese, diciamo, con la sua condizione, con la povertà, insomma, che è anche dilagante, purtroppo ha delle grandi difficoltà a risalire. Grazie Laura. Silvia Battaglia, giornalista freelance, era con noi in diretta da Sanaa, Yemen. Buona giornata e buon lavoro, Laura. Grazie a voi tutti, arrivederci. Nessun luogo è lontano. Boko Haram's leader Abu Bakr Shekau says they have created a caliphate in the northeast Nigerian town of Gwoza. Au mois de juillet, le chef de Boko Haram a exprimé son soutien à Abu Bakr al-Baghdadi à la tête de l'organisation de l'État islamique. Alhamdulillah, alladhi nasara ikhwanana fi Gwoza wa ja'alaha dawlatan min duwal al-Islam. Alhamdulillah. La voce che avete sentito è quella di Abu Bakr Shekau, leader di Boko Haram, questa formazione estremista armata che ormai esiste da circa il 2002, ma è del 2009 che ha fatto il grande salto di qualità, tra virgolette, innalzando il livello dello scontro. Siamo nel nord della Nigeria, un nord a maggioranza musulmano, più povero di un ricco sud cristiano. Boko Haram dà parecchie grattacapi al governo di Abuja, che non riesce a gestire la situazione. Gli attacchi si ripetono, l'avete sentito anche dalle notizie del GR, l'ultimo proprio questa mattina, ma Boko Haram ha avuto in passato le capacità militari e strategiche e tattiche, anzi, di colpire anche Abuja, e l'ha fatto più di una volta. Ora però c'è questa dichiarazione, questo video postato alcuni giorni fa appunto su YouTube, in verità un video assolutamente molto molto più artigianale di quelli a cui ci ha tristemente e drammaticamente abituato ISIS invece nelle ultime settimane. E comunque però la sostanza del video è questa qua: è stata presa una città nello stato di Borno, la città di Gwoza, e Abubakar Shekau ha dichiarato l'instaurazione del califfato, omaggiando in questo modo anche al-Baghdadi appunto di ISIS. Siamo con Emilio Manfredi, analista, esperto di questioni africane, lavora fra gli altri per International Crisis Group, Human Rights Watch. Emilio Manfredi, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno Gianpaolo, buongiorno a tutti voi. Allora Emilio, ancora una volta stiamo a parlare, anche se ci spostiamo geograficamente, ancora una volta stiamo a parlare di ISIS o dello Stato Islamico, segno che questo brand, l'abbiamo già detto più volte, ha una forza centripeta, evidentemente irresistibile. Però questo colpo di scena di Abubakar Shekau, questo dichiarare il califfato, è una mossa di propaganda, è una mossa di marketing appunto perché ci si appoggia a un brand così forte, o vedi un salto di qualità, cioè l'occupazione perenne, più che perenne, duratura diciamo, di un territorio? È ancora un po' presto per dirlo, bisogna capire che cosa succederà nei prossimi giorni. Dopo aver preso Gwoza, adesso mi risulta che ci siano grossi combattimenti in un'altra città, la frontiera con il Camerun, sempre nel Borno State, esatto, che si chiama Gamborongala, dove a quanto pare Boko Haram ha attaccato le truppe dell'esercito nigeriano e sta cercando di conquistare anche quest'altra cittadina, questo grosso villaggio, insomma. È difficile capire esattamente che cosa succede così in fretta, perché dobbiamo ricordarci che queste aree del Borno State sono aree molto isolate dal resto del paese, sono aree boscose, sono aree dove i collegamenti telefonici sono sempre stati molto molto difficili, e soprattutto dove Boko Haram ha distrutto quel poco di infrastrutture e di network telefonico che esisteva precedentemente. Ciò detto, a luglio Abubakar Shekau aveva già fatto una cosa abbastanza nuova per i gruppi radicali islamici in Africa, cioè si era ufficialmente staccato dal brand di Al-Qaeda di Bin Laden, quello che racchiudeva un po' tutti i gruppi islamici armati in Africa, e aveva riconosciuto ISIS e al-Baghdadi come una nuova forza, un nuovo polo attrattivo. Sì. Secondo me questo è grosso modo ciò che può essere successo, cioè io non credo che abbia voluto dichiarare un nuovo califfato in Gwoza, mi sembrerebbe anche un po', mi sembrerebbe troppo anche per un personaggio sicuramente molto eccentrico come Abubakar Shekau. Sì. Con ciò bisogna vedere il valore di propaganda, è interessante perché in questo momento se ci stacchiamo un attimo dalla nostra visione, che è quella se vogliamo un po' euro, un po' eurocentrica, un po' occidentale, di vedere ISIS come una forza violenta e dalla brutalità eccessiva, negli occhi di molti giovani delle varie comunità musulmane che si stanno radicalizzando in tutto il mondo, ISIS invece ha una forza propagandistica molto forte, e magari in questo senso la dichiarazione di Shekau è interessante. Adesso bisognerà vedere che cosa succederà sul terreno in Nigeria e che cosa succederà da parte degli altri gruppi, come si riposizioneranno gli altri gruppi islamici radicali armati. Sì. Nell'Africa subsahariana. Sì. Perché poi appunto non dobbiamo dimenticare, c'è Al-Qaeda nel Maghreb islamico, vabbè, tutti i vari movimenti in Mali, eccetera, eccetera. Ma lì ci torniamo tra pochissimo. quanto c'è di questione religiosa nella lotta ormai, nella guerra che c'è tra Boko Haram e il governo centrale di Abuja. Boko Haram significherebbe, con una traduzione un po' zoppicante, l'educazione occidentale è vietata. Prima Yusuf, poi Shekau dice, hanno sempre detto vogliamo instaurare la Sharia, eccetera eccetera. In realtà forse, Emilio Manfredi, c'è qualcosa sotto che è travestito da guerra di religione. Ma sotto ci sono tante cose. Prima di tutto sotto c'è che la Nigeria è un paese molto diviso, anzitutto è un paese diviso in due proprio dal punto di vista religioso, tra cristiani e musulmani. E poi è un paese diviso perché la Nigeria è un paese molto ricco, dove la maggioranza dei nigeriani sono poveri, molto spesso sono molto poveri. E poi è un paese, la Nigeria è un paese estremamente corrotto, dove c'è una piccola elite che gestisce una montagna di soldi e che manipola la maggioranza della popolazione, che invece a questi soldi avrebbe probabilmente più diritto e che vede quasi mai. Quando è cominciato Boko Haram, alla fine degli anni 90, non era un movimento islamico armato che conquistava territori e attaccava le chiese, era un movimento più che altro di predicazione in cui Mohammed Yusuf, il fondatore di Boko Haram, sì, chiedeva di fatto alla Nigeria, nel nord della Nigeria, la Nigeria usciva da diversi decenni di regimi militari alternati a piccoli periodi regimi civili, chiedeva al nuovo regime civile di combattere la corruzione, riallocare le risorse anche alle regioni poverissime del nord, e poi chiedeva anche rinunciare a delle credenze che, non secondo Mohammed Yusuf, non corrispondevano al libro, al Corano, ma piuttosto a delle idee occidentali che appunto erano peccato. Sì, quindi tu dici in realtà a tutta questa serie di lagnanze, lamentele che erano, sì, molto radicate nel territorio, non c'è stata alcuna risposta da parte delle elite corrotte, sia negli stati federali del nord-est della Nigeria, o del nord della Nigeria più largamente inteso, che da parte del governo centrale di Abuja. Nel 2009, quindi, un movimento largamente non violento, che era Boko Haram, fino al 2009 è stato attaccato, c'è stata una militarizzazione, sì, della lotta a Boko Haram. Fra l'altro con quella esecuzione extragiudiziale, no, Emilio, per cui a un certo punto Mohammed Yusuf fu trovato con le manette ai polsi, le mani legate dietro e ucciso, si disse, scusate, in un tentativo di fuga, quando insomma in realtà è abbastanza assodato che fu una vera e propria esecuzione. E volevo ricordare che l'esercito nigeriano, secondo vari rapporti di organizzazioni, tra cui anche Human Rights Watch, si è sempre macchiato di pugno troppo pesante anche sulla popolazione civile, che insomma non c'entrava nulla con Boko Haram. Esattamente, questo è anche nella campagna che, insomma, dopo il 2009 Boko Haram si radicalizza, sicuramente Boko Haram viene usato sia da delle elite locali nigeriane che avevano degli interessi, che hanno tuttora degli interessi specifici a destabilizzare la situazione, sia allarga i propri contatti con un network jihadista internazionale in Africa e oltre, ma di rimando la risposta del governo centrale, degli stati federali nigeriani, è sempre quella di militarizzare sempre di più la risposta alla radicalizzazione, facendola diventare una guerra militare al terrorismo, che coinvolge, in cui vengono uccisi centinaia di civili delle regioni del nord in cui Boko Haram si muove. Nello stesso tempo non viene data nessuna risposta alla richiesta, soprattutto delle larghe masse di giovani che vivono in queste terre, sì, di avere più opportunità di educazione, più opportunità di lavoro, mentre dalla parte di Boko Haram, in cui si afferma la leadership di Abubakar Shekau, che è sicuramente molto più radicale, molto più estremista e molto più violento dei suoi predecessori, soprattutto di Mohammed Yusuf, e Abubakar Shekau è anche una disponibilità economica e ingaggia molti di questi giovani disperati in cerca di lavoro, dandogli un'arma, un lavoro e forse anche un po' una ragione di vita in qualche misura. Sì. Quindi l'intrico, anziché sciogliersi, si è andato complicando, con enormi responsabilità da parte dell'establishment politico al potere in Nigeria. Chiarissimo, chiarissimo Emilio Manfredi, grazie per la tua analisi. Fra l'altro tu citavi diciamo, collegamenti con altre formazioni estremiste e noi tutti ricordiamo quella notizia di un paio di anni fa quando a un certo punto, insomma, perdonerete la narrazione al limite della facezia, però si trovarono tutti i principali leader, Al-Shabaab, Boko Haram, Al-Qaeda al Maghreb Islamico a prendersi il tè a Gao nel bel pieno della crisi maliana, guarda caso tutte formazioni che nascono e prosperano in stati deboli dove appunto il potere centrale, se quando si fa sentire in maniera benefica. Grazie Emilio Manfredi per essere stato con noi, ricercatore, consulente fra le altre per International Crisis Group. Buona giornata, buon lavoro Emilio. Arrivederci, buona giornata a voi. milioni di abitanti, la Nigeria è il paese con il PIL a crescita più alta in tutta l'Africa, c'è petrolio, ci lavorano tanti italiani, eppure un paese fratturato, un paese il cui nord, lo avete sentito dalla descrizione di Emilio Manfredi, dista così tanti chilometri da quella capitale Abuja e da quell'altra grande città che è Lagos, dove c'è cinema, dove c'è industria, dove c'è molta più ricchezza. Anche questa è l'Africa, al di fuori di ogni retorica, le grandi contraddizioni. Nessun luogo è lontano. Prima di andare a parlare di Gaza e di Hamas, volevo lanciarvi una provocazione. Vi ricordate quella campagna, l'hashtag era Bring Back Our Girls, dopo che Boko Haram aveva rapito 200 giovani studentesse appunto nel nord della Nigeria? Poi nelle settimane, nei mesi successivi, alcune decine di loro erano riuscite a scappare. Però se ben ricordate si mobilitò il mondo intero, persino Michelle Obama si fece ritrarre e twittò con il cartello Bring Back Our Girls. Allora, a volte questi meccanismi mediatici sono di un'ipocrisia incredibile, perché stiamo parlando di 200 ragazzine che tecnicamente sono state vittime di tratta, perché sono state rapite e poi costrette, pare anche in alcuni casi, a schiavitù sessuale, servitù, eccetera. E quindi questo è il fenomeno della tratta vero e proprio. Ebbene, per dire quanto a volte siamo miopi, e io cerco in questo programma ogni tanto di porre qualche punto di domanda, ebbene sappiate che sono dalle 5 alle 10.000 le ragazze nigeriane vittime di tratta che si prostituiscono sulle strade italiane, e rispetto alle quali nessuno si muove, nessuno fa campagne mediatiche, men che meno ovviamente Michelle Obama. E quindi a volte l'economia dei media è così, ha una copertina un po' troppo stretta, la tiriamo da una parte e scopriamo i piedi. Forse dovremmo ogni tanto avere la lucidità per riportare i fenomeni, i numeri a quello che sono, con tutto ovviamente rispetto per quella vicenda, però a volte, molto spesso, sotto i nostri occhi, a casa nostra, accadono fenomeni simili di portata ancora maggiore. Allora, questa era la piccola provocazione su quella campagna mediatica Bring Back Our Girls. Adesso do il mio buongiorno a Ugo Tramballi, Sole 24 Ore. Buongiorno Ugo, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Allora, tanto scalpore ha destato quella esecuzione, abbiamo visto le immagini da parte di alcuni militanti di Hamas, di presunti collaborazionisti con Israele. Erano tanti anni che non si vedeva un'operazione di questo tipo. La domanda è: che cosa è accaduto a Gaza, che cosa ha fatto Hamas? Sapeva che si sarebbe attirate gli strali di mezzo mondo? Aiutaci a capire meglio, perché francamente io sono un po' confuso. Tutto sommato Hamas non è particolarmente specializzato in public relations, cioè loro non hanno mai avuto, in genere i palestinesi, in particolare Hamas, mai avuto un tocco particolare nelle pubbliche relazioni, nel cercare di avere buona stampa, e quindi con il solito metodo brutale della vendetta hanno giustiziato delle presunte spie. Il problema è che probabilmente molti lo erano, nel senso che lo Shin Bet, un po' per coercizione, costringendo tanti palestinesi che hanno magari parenti in prigione o tanti palestinesi che avevano bisogno di un permesso di lavoro, di transito per entrare in Israele a lavorare, molti sono stati costretti a spiare altri. Insomma, lo Shin Bet, i servizi segreti israeliani, hanno storicamente una struttura molto forte, e aver colpito negli ultimi giorni del conflitto direttamente alcuni capi importanti militari. Normalmente Israele non uccide i leaders, anche perché sa perfettamente che con quelli prima o poi comunque dovrà parlare, seppur indirettamente, seppur attraverso i negoziatori egiziani. Sì. Quindi quello era stato un nuovo sviluppo del conflitto. Ed evidentemente, avendo colpito così con tale accuratezza i leader di Hamas, soprattutto dell'ala militare di Malkassam, ha convinto Hamas che ci fosse appunto una rete che andasse eliminata. Ovviamente loro l'hanno fatto alla loro maniera, appunto facendo le esecuzioni pubbliche come un pochettino come fanno tutti i fondamentalisti islamici. Sì, e forse vorrei dire, pur sapendo che si sarebbero attirati critiche, ovviamente giudizi negativi, perché c'è anche una guerra mediatica in corso, però forse era più importante, se ho ben capito le tue parole, lanciare un messaggio forte ai servizi segreti israeliani dicendo: attenzione, questi giochini li conosciamo bene, state attenti perché questa è la fine che faranno i vostri uomini. Ma forse no, non né l'uno né l'altro, nel senso che nel secondo caso gli israeliani lo sapevano perfettamente. Nel primo caso io credo che la loro audience non siamo noi, non è l'opinione pubblica occidentale, la loro audience, il loro pubblico è quello di Al Jazeera, della televisione in arabo, non Al Jazeera International. E il pubblico appunto arabo della strada, molto filo palestinese, molto anti-israeliano, che di fronte a questa violenza, di fronte a queste esecuzioni sommarie, non hanno un atteggiamento un pochettino più accondiscendente, anzi credo che faccia molto spettacolo questi comportamenti, questa giustizia sommaria. Grazie Ugo Tramballi, Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro Ugo. Grazie a voi. Tra l'altro leggo le agenzie con voi in questo esatto istante: Israele ha confermato di aver condotto un'esecuzione mirata oggi quando un razzo ha centrato un'automobile in transito a Gaza City. All'interno, secondo la radio militare israeliana, viaggiavano due miliziani di un gruppo locale noto come Esercito dell'Islam, impegnati nell'organizzazione di un attentato, così ha affermato l'emittente. Queste sono le ultimissime che arrivano dalla striscia di Gaza, crisi ben lontana dall'essere risolta, tutt'altro, ma che anzi dispiega i suoi effetti in maniera anche imprevedibile e forse inusitata. E succede a volte che alcune aziende israeliane procedano a dei licenziamenti e vadano a licenziare quei dipendenti che sui social network abbiano espresso pareri e prese di posizione piuttosto nette contro le operazioni militari di Israele, appunto, nella striscia di Gaza. Abbiamo raggiunto Maa Shehadeh, che è una sindacalista israeliana del sindacato Kav Laoved, alla quale abbiamo chiesto di che tipo di casi si sta occupando. I can tell you that lately we've been approached by dozens of Palestinian workers who have been fired because of things. La nostra associazione ha ricevuto richiesta di assistenza legale da parte di alcuni lavoratori palestinesi che sono stati licenziati dopo aver espresso posizioni contrarie agli attacchi militari israeliani sui loro account social network. Abbiamo raccolto 25 casi di pagine Facebook private di lavoratori e studenti che sono stati insultati, definiti traditori e minacciati dopo aver postato commenti contro la guerra in corso. Alcune di queste pagine Facebook sono diventate delle vere bacheche pubbliche di intimidazione, dove colleghi e conoscenti denunciavano il cittadino palestinese aggiungendo foto e dati della sua abitazione o del luogo dove lavora, chiedendo che venisse licenziato o che venisse cacciato da scuola, nel caso di studenti, e appellando tutti a trattarlo come un nemico pubblico, per esempio boicottandolo nel caso fosse un commerciante. E questo è il caso più frequente che ci è arrivato. In altri casi si è trattato più semplicemente di colleghi di lavoro israeliani che hanno preferito interrompere tutte le relazioni e quindi anche legami sui social network con colleghi palestinesi. Alla dottoressa Shada, all'avvocato Shada, abbiamo poi chiesto quali sono le ragioni ufficiali addotte dalle aziende o dai datori di lavoro israeliani per licenziare i dipendenti palestinesi in questo caso. Earlier posts of things workers post in Facebook that doesn't fall within the consensus. Le opinioni riguardanti la guerra postate sui propri account senza il consenso dell'azienda sono ritenute una giustificazione per il licenziamento. Sì, in pratica il diritto del lavoro in Israele garantisce uguale opportunità di occupazione senza distinzione di credo o opinione politica. Inoltre, la libertà di espressione è un diritto fondamentale dell'uomo e la legge israeliana non consente di punire dipendenti per delle opinioni espresse fuori dal luogo di lavoro. Ma qui vediamo proprio il contrario. Abbiamo casi di dipendenti palestinesi puniti perché hanno espresso delle opinioni politiche personali e lo hanno fatto fuori dal luogo di lavoro, ovvero su Facebook. E la domanda finale a Maa Shehad del sindacato Kav La Oved, sindacato israeliano, è: quale sarà il prossimo passo legale per difendere i lavoratori che si sono rivolti a loro? Il licenziamento motivato da opinioni politiche è legale, senza alcun dubbio. Secondo il diritto israeliano, al lavoratore licenziato per causa ingiusta e discriminatoria spetta una compensazione e il diritto ad appellarsi ad un tribunale del lavoro, che può decidere se reintegrarlo o meno nell'azienda che lo ha allontanato. Quindi quello che facciamo come associazione è fornire assistenza legale ai lavoratori licenziati illegittimamente e rappresentarli in tribunale. Non abbiamo i numeri esatti, ma stiamo parlando di dozzine di casi di aziende diverse. E questi sono gli effetti, l'onda lunga del conflitto israelo-palestinese. Mentre le agenzie battono in questi minuti fuoco sul Negev occidentale, fuga di massa, 300 famiglie israeliane chiedono di essere trasferite perché in corso l'offensiva di Hamas contro i villaggi israeliani vicini alla striscia con il lancio di razzi, colpi di mortaio. Il sito di Haaretz riferisce che 300 famiglie avrebbero chiesto oggi al Ministero della Difesa di aiutarle a trasferirsi altrove e seguono oltre 400 famiglie che hanno sgomberato dopo l'uccisione di un bambino di quasi 5 anni raggiunto da un colpo di mortaio. 349-238-6666, invece c'è un ascoltatore che puntualizza i termini da noi utilizzati, dice: avete detto che sono stati giustiziati, dite la verità, sono stati assassinati. Si è trattata di un'esecuzione stragiudiziale. Il momento in cui tu porti delle persone senza un processo, presunti collaborazionisti, e li metti in ginocchio per strada, la folla corre e gli spari un colpo di pistola in testa, a me sembra che sia stata un'esecuzione. Poi possiamo ragionare su questi termini. Anche Ugo Tramballi ha detto stragiudiziale, quindi non capisco la polemica su questi termini. Va bene, non ho più tempo, gli altri sms magari domani al 349-238-6666. Intanto non mi resta che ringraziare voi per essere stati all'ascolto, Nadia Zammitti e Miren Lucchetti che hanno curato con me questa puntata, Roberto Scaltriti gli ha dato la musica e il ritmo giusto, l'appuntamento è per domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.